Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come già vi hanno anticipato i nostri GR24, oggi il Ministero del Lavoro ha fornito i dati sui nuovi contratti a marzo. Perché marzo è un mese importante? Perché, come molte volte abbiamo ricordato, marzo è il mese in cui è partito il Jobs Act. Non è partito, lo ricordo ancora una volta, invece non è partita la decontribuzione, perché quella è partita a gennaio. Oggi toccherà fare mille distinguo. Perché lo dico? Perché il Ministero fornisce i dati sui nuovi contratti di lavoro nel suo complesso, quindi qualunque tipologia, dai Coco Pro ai tempi determinati ai tempi indeterminati, e scopriamo che ci sono state 92.000, la differenza tra i nuovi contratti e i contratti che si sono invece chiusi, a eccezione del lavoro domestico della pubblica amministrazione, è un saldo positivo di 92.000 unità. Ora, siccome questo dovrebbe essere il dato che dice: bene, abbiamo creato 92.000 occupati in più, nel senso che se tu trasformi anche un Coco Pro da un tempo determinato, chiudi il suo contratto come Coco Pro e ne apri uno come tempo determinato. Stessa cosa se da Coco Pro vai a tempo indeterminato. Per cui questo dato, che segnala la differenza tra contratti chiusi, cessazioni e nuovi contratti, dovrebbe dirci qual è il saldo di nuovi occupati, 92.000. Non è però così, perché il Ministero poi si è affrettato a comunicare che, attenzione, dobbiamo aspettare i dati dell'Istat sull'occupazione, che fa la valutazione non dei contatti ma di tutte le posizioni lavorative. Confesso che non capisco, ma poi cercheremo di capirne di più. Stiamo parlando di contratti di lavoro, non di nuovi posti di lavoro, per cui, e questo è chiaro, però da come la capisco io, se tu prendi in considerazione tutti i dati sui nuovi contratti fatti a marzo e tutti i dati sui contratti cessati a marzo, dovresti avere un saldo, perché dovrebbe darti la fotografia dei nuovi contratti veri e propri, perché un vecchio contratto, che è un nuovo contratto che prende il posto di un vecchio, si annullano come dato. E invece c'è un saldo positivo di 92.000. Ancora, sempre per quello che riguarda il numero di contratti a tempo indeterminato, sono stati 162.000. 131.000 sono cessati. Qui però non si può fare lo stesso ragionamento, ce ne sono quindi 31.000 in più di tempi indeterminati. Però attenzione, noi non sappiamo se quanti di questi 160.000 siano contratti già esistenti trasformati a tempo indeterminato oppure nuovi contratti. È ovvio che uno può dire: è comunque meglio avere un tempo indeterminato che avere un Coco Pro, e ci siamo. Però noi vorremmo sapere anche se si è generato o no nuova occupazione o se c'è solo stato un miglioramento della tipologia contrattuale. Su questo si concentrano, siccome sarà il tema di apertura, si concentrano i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore. Poi ne parleremo ampiamente anche con i nostri ospiti. Allora, ascoltiamoli. La firma è del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. Come sempre vengono trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Dopo le polemiche sui dati dell'occupazione, il Ministero del Lavoro oggi ha diffuso le nuove statistiche di marzo sui contratti di lavoro. Marzo è il mese dal quale, a partire dal giorno 7 per la precisione, si applicano le regole del Jobs Act sul nuovo contratto a tutele crescenti. Quindi diventa un po' il primo test per capire se le norme arrivate da poco stanno producendo effetti positivi. Cosa dicono i numeri? Il saldo tra nuovi contratti e contratti chiusi, cessati, è attivo per 92.000 unità. Un dato positivo, come positivo il fatto che tra le attivazioni di nuovi contratti oltre 162.000 siano stati a tempo indeterminato. Questo dice che il rapporto di lavoro tende a diventare più stabile, anche perché sempre a marzo oltre 40.000 contratti a termine sono stati trasformati in contratti a tempo indeterminati. Attenzione, un numero così elevato di trasformazioni si spiega con l'incentivo di oltre 8.000 euro all'anno per 3 anni concesso alle imprese che assumono con contratto a tempo indeterminato, quindi diventa più conveniente di quello a termine. Per cui possiamo dire che la combinazione tra questo bonus e le nuove regole del Job Act sembra poter funzionare. I dati sono confortanti, lo ha detto lo stesso presidente Mattarella. Sicuramente è presto per parlare di una spinta all'occupazione nel suo complesso, ma questo lo sappiamo. L'uscita dalla crisi è lenta e ancora debole, per cui ci vorrà tempo prima che arrivi la nuova vera occupazione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, adesso ne parleremo. Ha ragione chi dice attenzione, ci sono anche le partite IVA, e ha ragione nel senso che le partite IVA non sono contratti di lavoro e quindi il saldo attivo di 92.000 contratti in più tra quelli chiusi, tutti inclusi e non solo i tempi determinati, e quelli aperti, 641.000 nuovi contratti e 549.000 cessati, in questo dato 92.000 ci potrebbero essere persone che erano partita IVA e vengono trasformati in tempo determinato o in tempo indeterminato. Nel qual caso, ecco perché dico, non riusciamo ancora a capire quanti siano nuovi posti di lavoro. Nel qual caso tu un lavoro ce l'avevi già, è solo che eri come partita IVA, adesso sei magari a tempo indeterminato o a tempo determinato. Il saldo risulta positivo perché prima non avevi un contratto, quindi sei un contratto in più, i 92.000 in più, ma tu in realtà il lavoro ce l'avevi già prima, quindi non possiamo parlare di nuova occupazione. Detto ciò, ha ragione anche chi mi scrive, ma il dato comunque positivo, sono 92.000 in più, non 92.000 in meno. Verissimo, ci mancherebbe, come il fatto che siano cresciuti i tempi indeterminati, 54.000 in più i contratti a tempo indeterminato rispetto al marzo del 2014, è una buona notizia, perché ripeto, sempre meglio, tranne che per le anime belle è un po' sinistra caviale, a mio avviso, gauche caviar, come dicono i francesi, tranne che per le anime belle è sempre meglio avere un tempo indeterminato, anche a tutele crescenti, che non la partita IVA che mascherava di fatto un contratto di lavoro, anche se sembrava un libero professionista. Poi però il dato per capire se c'è un'inversione di tendenza, se c'è qualcuno che si è messo a assumere lavoratori nuovi oppure si è messo solo a trasformare i contratti, per questo ci vuole ancora tempo. Ricordo che il dato di febbraio fu deludente, 13 unità, la differenza faceva 13 persone in più, non sto scherzando, era proprio rispetto ai primi 2 mesi del 2014, gli occupati in più, chi non lavorava, erano 13, con 13 ci fai una squadra di calcio scarsa, perché la panchina è corta, ma non cambi certo il verso dell'occupazione. Andiamo con le altre notizie in breve, poi ripeto, arriveremo a questo tema, ci occuperemo chiaramente anche di una vicenda che sta scuotendo molto l'Agenzia delle Entrate. Abbiamo cercato di avere ospite anche l'Agenzia delle Entrate, hanno declinato gentilmente l'invito. Cosa è successo? Se ne è parlato anche nei giorni scorsi. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha stabilito con una sentenza la nullità, quindi c'è già una sentenza, di un avviso di accertamento firmato da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate a cui erano stati conferiti incarichi senza un concorso pubblico. La decisione segue la pronuncia della Corte Costituzionale che dice, lo scorso 17 marzo, ha detto: chiunque acceda al pubblico impiego lo può fare solo tramite concorso pubblico e non tramite successive sanatorie o nomina interna. Gli atti firmati da funzionari che non sono passati attraverso il concorso pubblico non sono pertanto validi. Ora, nell'Agenzia delle Entrate, la pratica di coprire le carenze di organico elevando i normali funzionari a ruoli di dirigente senza un concorso pubblico è una pratica che riguarderebbe circa 770 funzionari. Ora voi capite che non ci vuole un genio per capire che se la sentenza, avremo ospite l'avvocato che ha vinto la causa, è un tributarista di Milano, si chiama Maurizio Reggi, ha vinto la causa, difendeva un imprenditore, e voi capite che se l'Agenzia delle Entrate minimizza, dice no, errate notizie di stampa, nessun collegamento. Beh, a noi abbiamo visto la sentenza, non ci sembra proprio che siano errate, poi ce lo spiegherà l'avvocato, ma il problema è capire, a questo punto c'è una sentenza su cui tu ricorrerai ovviamente, ma cosa succede a tutti gli atti firmati, oltre che da quel funzionario, dagli altri 770 funzionari? L'ex direttore generale dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, vuole dirci qualcosa sull'argomento, visto che la pratica era invalsa e diffusa quando lui ha diretto per molti anni l'Agenzia delle Entrate? Perché adesso tutta la colpa poi ricade sulla nuova direttrice dell'Agenzia delle Entrate, però in questo paese sarebbe anche il caso di ricordarsi chi ha guidato, non è che parliamo solo di Ciucci da una parte, di Incalza dall'altra, parliamo anche di Befera. Allora, non è un giudizio su Befera, ma l'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui la dirigeva Attilio Befera, aveva questa pratica di, per coprire la carenza d'organico, non faceva i concorsi, elevava a qualifica di dirigente il funzionario. La Corte Costituzionale stabilisce che l'atto è nullo. Un tribunale di Milano, non uno qualunque, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, stabilisce che a questo punto è nullo anche l'accertamento. Secondo l'Agenzia delle Entrate va tutto bene perché sono errate e prive di collegamento la sentenza della Commissione Tributaria con quella della Corte Costituzionale. Comunque, noi vorremmo capire che cosa succederà adesso, perché immagino che uno vada a guardare se per caso gli accertamenti fatti da altri funzionari non possono essere passibili di nullità. E comunque faccio notare che quando parliamo di licenziamenti nel pubblico impiego e il fatto di utilizzare il Jobs Act per il pubblico impiego, gravissimo errore del governo non estendere al pubblico impiego a nostro avviso, la risposta che ci viene sempre fornita è: ma lì si entra con concorso pubblico, non li puoi trattare come nel privato. Allora, sto concorso pubblico non è che serve, va bene quando non puoi applicare Jobs Act, e invece va male quando, perché ce lo non te ne accorgi quando puoi utilizzare un funzionario che non ha fatto il concorso per fare il dirigente, e quindi chi dovrebbe essere entrato con concorso, o vale sempre o non vale mai, mettiamolo così, fermo restando che a mio avviso il Jobs Act andava applicato anche a chi entra con concorso, perché entrare con un concorso vuol dire subire un certo tipo di selezione, ma non vuol dire restare lì a vita. Però questa è una mia opinione personale. E giustamente, come segnalava anche Oscar Giannino, poi oggi su Sole 24 Ore c'è un Vincenzo Visco, indimenticato, lo dico senza giudizio di valore, ministro delle Finanze, che attacca la sentenza della Corte Costituzionale. Ma va tutto bene, cioè uno può dire la sentenza della Corte Costituzionale sbaglia, ma anche qui la sentenza della Corte Costituzionale non può essere come la coperta di Linus, che te la usi solo quando ti serve. Allora, la Corte Costituzionale ha deciso e poi faranno tutti i ricorsi del caso. Noi vorremmo sapere dall'Agenzia delle Entrate come mai minimizzano, no, non è vero nulla. Ma intanto un accertamento è stato annullato con una sentenza che fa storia. Il diritto non lo si può rivendicare nella sua certezza solo quando fa comodo. Comunque non è una difesa, lo dico a chi mi sta scrivendo, degli evasori. È la difesa del cittadino di fronte a uno Stato che non può fare come gli pare ogni volta, nel senso che no, decidiamo, ripeto, eliminiamo i concorsi pubblici, va bene. Allora però applichiamo il Jobs Act a pubblico impiego. O se no, decidiamo che la Corte Costituzionale sbaglia quando tocca l'Agenzia delle Entrate. Non lo so, a me sembra una follia. Parleremo anche di Deutsche Bank, la banca tedesca che si è beccata una multa record da 2 miliardi e mezzo di dollari per lo scandalo della manipolazione del Libor. La multa gliel'hanno affibbiata le autorità di vigilanza americane e britanniche, ripercorreremo anche la vicenda. Deutsche Bank era già finita sotto inchiesta nell'Unione Europea insieme a altre banche sempre per la manipolazione dei tassi di riferimento Libor. In quell'occasione aveva già pagato 725 milioni di euro di multa. Nessun membro del consiglio di gestione di Deutsche Bank, attuale o passato, è coinvolto, fa sapere la banca, o era a conoscenza della condotta inappropriata dei trader. E infatti il gruppo ha messo in atto provvedimenti disciplinari, licenziamenti nei confronti dei trader e ha significativamente rafforzato i suoi controlli e le procedure. Anche qua. Se mi ricordo, qualcuno si ricorda Jérôme Cavriel, quello che il gruppo BNP Paribas, se non ricordo male, o Société Générale, disse no, ma 5 miliardi di buco li ha fatti da solo Jérôme Cavriel. Allora, una volta si diceva che la colpa comunque è del capo, perché male che vada hai la colpa di non aver controllato. Vedo che Deutsche Bank diventa molto italiana quando c'è, o molto latina, quando c'è da dire no, noi non sapevamo nulla, abbiamo licenziato i trader, nulla sapevamo di come veniva manipolato il tasso Libor, però gli utili si vedevano. Dico, avevate solo dei geni a quel punto. Ma dai, su. Allora, nel frattempo, sempre dalla Germania, sappiamo che la Germania ha risparmiato 94 miliardi di euro di costi sui tassi di interesse fra il 2008 e il 2014. Per quello che riguarda invece altre notizie di carattere internazionale, il colosso brasiliano del petrolio, Petrobras, l'anno scorso ha subito perdite pari a 6 miliardi e 300 milioni di euro, di cui 1 miliardo e 8 provocati dallo schema di presunte tangenti tuttora oggetto di indagini della polizia. E invece, spostandosi sull'Europa, dove oggi appunto c'è stato il vertice sul dramma dei migranti, dalle prime indiscrezioni sembra che comunque nell'incontro a margine del vertice tra Angela Merkel e Alexis Tsipras, quindi la cancelliera tedesca e il presidente e il premier greco, Tsipras avrebbe chiesto alla Merkel un'accelerazione del negoziato per giungere ad un accordo ad interim entro fine aprile. Oggi il presidente dell'Eurogruppo Aaron Dijsselbloem ha detto: è ipotizzabile che gli aiuti internazionali siano versati alla Grecia in tranche, cioè a pezzi, a fronte della parziale attuazione del programma di riforme. Faccio anche notare che su questo la Grecia, non la Spagna, sta cercando ogni modo per reperire risorse anche dai fondi pensione del paese, e che invece dalla Spagna, ecco perché mi confondevo, è arrivata la notizia che la disoccupazione spagnola è tornata a salire nei primi tre mesi del 2015 al 23,8%. Tra pochissimo arriviamo anche ai dati sull'occupazione, però due notizie ancora. La borsa, meno 0,56% Milano, meno 0,80% Parigi, meno 1,40% Francoforte, più 0,20% Londra, invariata l'America. Euro su dollaro a quota 1,08%, i titoli Bene Saipem più 2%, Buzzinice più 1,80%, Tenaris più 1,40%, UbiBanca più 0,70%, Telecom più 0,60%. Male invece Steam Microelectronics, meno 4,30, Ferragamo meno 3,60, Finmeccanica meno 3,1, Fiat Chrysler meno 2,30, Mediaset meno 2, Unipolsai meno 1,90, Pop Milano meno 1,70 come Prismian, l'1,5 lo perde Exor e anche il Monte dei Paschi, l'1,20 è il calo di Autogrill, l'1,1 quello di Azimut, Snam e Intesa San Paolo. Invece 349-238-6666 è il numero per i vostri sms, e poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, il primo tema riguarda il mercato del lavoro, però visto che parliamo di disoccupati, di record di disoccupati, vorrei raccontare una cosa la classifica degli sprechi, delle malversazioni, del malcostume della pubblica amministrazione italiana e degli enti locali, di tutto, l'abbiamo collocata ormai al venerdì, e al venerdì resta la nostra top 5. Poi faremo anche votare gli ascoltatori sulla top 5 della top 5, quali sono sti casi più eclatanti di tutti. Io ne ho uno che c'ho proprio qua, però non ve lo voglio dire. No, ma parliamo di spese non giustificate, ma per un altro motivo. C'è una procura, che è quella di Cagliari, che contesta spese per 78.000 euro all'attuale sottosegretario dei beni culturali del governo Renzi, Francesca Barracciu del PD. È accusata di peculato aggravato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto uso illecito dei fondi destinati alle attività istituzionali dei gruppi, il solito tema dei gruppi. Oggi il PM ha chiesto il rinvio alla Barracciu, ok? L'accusa è di avere, o meglio, la procura contesta spese per 78.000 euro effettuate dall'esponente PD quando sedeva nei banchi del Consiglio regionale. Sono 70 consiglieri indagati, ne hanno già rinviate a giudizio 20 del loro gruppo misto. Già il sottosegretario si era presentato a metà dicembre 2013 dal PM Cocco per rispondere di una prima contestazione di 33.000 euro. Allora, io dico una cosa: qui c'è un rinvio a giudizio di un PM con l'accusa di 78.000 euro. Ma fatemi capire, io non ho nessuna simpatia né antipatia per l'ex ministro Lupi, ma come si fa a chiedere e a ottenere? Poi, insomma, di fatto non è che l'ha chiesta, ma il silenzio era abbastanza emblematico ed esplicito. Le dimissioni di Lupi, giustamente, noi abbiamo detto, è un problema di opportunità, il tuo figlio non può avere un Rolex a 10.000 euro e lavorare per chi tu vigili, via, a casa. Però, voglio dire, ma la Barracciu, ma ne vogliamo parlare? Cioè, Presidente del Consiglio, non usiamo due pesi e due misure. Qui c'è un sottosegretario che è rinviato a giudizio per 78.000 euro. Allora, pesano più i 10.000 euro del Rolex del figlio di Lupi, che non era rinviato giudizio su niente, dei 78.000 per la Barracciu? Oggi ho capito che la giornata è tutta in salita. Però ascoltate cosa ha detto Francesca Barracciu durante Effetto Giorno a Radio 24 lo scorso 20 marzo, subito dopo le dimissioni del ministro Maurizio Lupi, coinvolto ma non indagato né rinviato a giudizio nella vicenda di Ercole Incalza. E il nostro Simone Spezia le chiede, mi scusi, ma c'è un'indagine anche su di lei. Sentite la risposta della Barracciu. Io non ho niente a che fare con le cosiddette spese pazze, perché non mi è mai stata contestata una spesa definita in quel modo, mai, da nessuno. C'è in Sardegna invece una procedura particolare che non prevedeva la rendicontazione da parte proprio del regolamento consigliare della legge regionale, e io sono insieme ad altri 90 consiglieri regionali che rispettavano quella legge. Quindi io non ho niente a che fare con questa definizione, la prego di non utilizzarla. Va bene, non, in secondo luogo, in virtù di questa questione, io, avendo vinto stravinto le primarie in Sardegna, ho già fatto il mio passo indietro e ho rinunciato alla candidatura a presidente della regione, verificando l'eventualità della legge Severino. Sì. Oggi non mi trovo in quella condizione, sono serena, affronterò le cose che verranno. Sì, sì, no, ma ha capito, però la anche condizione Lupi è completamente diversa. Sì, certo, però anche Lupi non è indagato, no? Si è dimesso per una questione di opportunità politica. Credo che abbia fatto una questione di opportunità politica per le cose che sono emerse in questi giorni e che lo vedono implicato nella sua funzione odierna di ministro, quindi avrà fatto questa sua valutazione. Tenga conto che i fatti che mi riguardano risalgono a 8 anni fa. Comunque non sente che, come dire, che la questione di opportunità politica la riguardi in questo momento, in questa sua veste? La questione di opportunità politica io l'ho già affrontata e non mi sono candidata alla presidenza della regione dopo aver vinto le primarie. Dopodiché il mio partito evidentemente ha considerato che questa è una vicenda che mantiene tutti i crismi per poter essere così come noi siamo garantisti. Sì. e non costituisce da questo punto di vista una questione politica, intanto perché sono robe successe 8 anni sì. fa, quindi insomma sono molto lontane, e perché rientrano purtroppo in una valutazione della legge regionale vigente allora, che non prevedeva la rendicontazione delle spese. Io non ho fatto nessuna spesa pazza. Vabbè, allora, non prevedeva la ricondazione delle spese e le hanno fatto nessuna spesa pazza. Ho capito, ma noi le crediamo. Il problema è non avere due pesi e due misure. Cioè, qui c'è un PM che la rinvia a giudizio e va bene così. tocca difendere anche Lupi. Guarda che mai avrei pensato di difendere Lupi io, in questo programma. Allora, meteo, pubblicità, poi parliamo con... anzi, lo ringrazio subito perché ci ha raggiunto in collegamento. No, non lo ringrazio. Andiamo in pubblicità e poi lo ringrazio. Allora, 349-238-6666 per gli sms e poi il sito di Focus Economia, o meglio la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, oppure il sito di Focus Economia sulla pagina di Radio 24, come volete, vai. Focus Economia. Are you with me? Are you with me? Allora, ripetiamoli questi dati sul lavoro, visto che il 6 marzo è entrato, 7 marzo è entrato in vigore il Jobs Act, sono particolarmente importanti. A marzo sono stati creati, ad esclusione del lavoro domestico e delle pubbliche amministrazioni, 641.572 nuovi contratti di lavoro. Ne sono cessati invece 549.000. Il saldo attivo è di 92.000 unità. Ora, uno potrebbe dire, quindi... visto che se tu passi da un contratto CocoPro a un contratto a tempo indeterminato, ne cessi uno e ne apri un altro, questi 92.000 sono tutti nuovi lavori. No, magari, perché giustamente ci sono anche le partite IVA e lì non venivano considerati come contratti, e quindi se tu chiudi una partita IVA e la trasformi in tempo, poniamo, indeterminato, hai un saldo positivo ma non crei un nuovo lavoro, quello già lavorava come sotto la mente a spoglia della partita IVA, anche se è un lavoro di fatto dipendente. Poi i contratti a tempo indeterminato attivati sono stati 162.000, 54.000 in più rispetto a un anno prima, e questo è un dato importante. Quelli cessati sono 131.000, il saldo è attivo per 31.000, ma qui veramente non possiamo sapere quanti di questi tempi indeterminati siano stati attivati da vecchi contratti di altro genere o siano nuovi contratti. Professor Della Ringa, economista del lavoro, deputato del PD, ex sottosegretario del lavoro, buonasera. Buonasera a lei, ascoltatori. Ora, noi avevamo chiesto, come Sole 24 Ore, non so se lo, se lo ricorda, in un lungo articolo di Luca Ricolfi, l'embargo, la fine dell'embargo dei dati sul lavoro da parte del Ministero. L'embargo probabilmente è finito, non è che ci abbia semplificato la vita. E le spiego perché. Perché oggi il presidente dell'Istat, Alleva, ha detto, attenzione, questi dati sono ancora... parziali, perché non ci sono i dati sull'occupazione. Oggi non mi risulta siano usciti i dati dell'occupazione, forse fa riferimento alle informazioni sulle comunicazioni obbligatorie, che riguardano quindi il numero di rapporti di lavoro e non necessariamente le persone. So che c'è un dato positivo in termini di bilancio fra attivazioni e cessazioni, ma credo che soltanto la valutazione del tipo di contratti e della loro durata e qualifica possa consentire di fare una valutazione aggiornata di questi elementi. Non ci sono stati casi di contraddizioni, ma di letture sotto punti di vista differenti. Allora, onorevole professore, la chiamo come vuole, ci dà una mano? No, perché professore Della Ringa, lei da anni che è ospite anche in questo programma e raccontiamo riforma del mercato del lavoro, dati sul lavoro, io non so... Allora, è chiaro che di positivo che c'è un saldo attivo di nuovi contratti, di 92.000 nuovi contratti tra quelli chiusi e quelli aperti. 641.000 nuovi contratti, 549.000 cessazioni, positivo di 92.000 unità. Così come di positivo c'è il fatto che se trasformi un CocoPro in un tempo indeterminato è sempre meglio che un CocoPro. Lei cos'altro ha capito? Esattamente questo, cioè partendo dal secondo e poi arrivando al primo, cioè ci sono trasformazioni e le imprese invece di assumere con contratti temporanei che siano a tempo determinato o autonomi, assumono a tempo indeterminato. E lì rispetto a un anno prima, a marzo dell'anno scorso, ci sono più di 30.000 di queste assunzioni che invece di essere tra virgolette precarie sono a tempo indeterminato. E questo era l'obiettivo fondamentale del Jobs Act, cioè combattere la precarietà. Vuol dire esattamente questo, cambiare il mix delle assunzioni. Fino a ieri il 15% venivano assunti a tempo indeterminato, a marzo adesso c'è stato un aumento dal 15-16% al 24-25%. Un bel salto, è quello che ci si aspettava. C'è meno precari, ci sono più posti stabili, ma fin qui è un ragionamento che riguarda i movimenti all'interno di un dato stock di occupati. Non stiamo parlando di stock di occupati. Il dato positivo, si combatte la precarietà, punto a capo. E questo senz'altro succederà, perché un 70.000 in un mese, uno può immaginare che in un anno ci saranno centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro più stabili invece che posti di lavoro temporanei. E questo è il dato positivo. Più problematico diventa dire, ma l'occupazione nel suo insieme, lo stock degli occupati, il numero di quelli che sono occupati aumenta o non aumenta? Perché noi ci aspettiamo anche questo. Ora io dico, il Jobs Act facilita, ma poi deve essere l'economia che tira, perché se le aziende non vendono, non producono, non investono, i consumatori non comprano, se l'economia si sviluppa allo 0,6-0,7% di PIL all'anno, non è che l'occupazione cioè possa bene, aumentare. Lei dice bene che vada, ed è già qualcosa, trasformi un CocoPro, una partita IVA, in un tempo indeterminato, perché hai beneficio da gennaio degli 8.000 fino a oltre 8.000 euro all'anno per 3 anni di contributi che non paghi, e poi da marzo hai anche un contratto a tutele crescenti che, come abbiamo spiegato molte volte, rende più facile, più percorribile il licenziamento a fronte anche però di altre garanzie che dà, maternità, malattia e indennità, ammortizzatori e indennità. Per cui minimo 4 mesi di stipendio, si maturano 2 mesi ogni anno di lavoro e svolto. E questo è un discorso che andrà a buon fine, immagino, perché appunto l'intervento soprattutto sul piano degli oneri sociali è stato molto... No, ma io lo dico perché basta della riga, lei è una persona che stimo moltissimo, basta parlarsi chiaro. Un governo può anche vantare il fatto che invece che avere, diciamo, che ha 160.000 precari in meno, o in questo caso sì, sono 162.000 precari in meno, perché dice... o il saldo è di 54.000 in più rispetto all'anno prima, perché dice guardate, grazie alle mie iniziative decontribuzione per il 2015 e Jobs Act per sempre, e le imprese adesso non tengono più le partite IVA finte in ufficio dai commercialisti, dagli avvocati, dagli impiegati, e non usano più solo i CocoPro o i tempi determinati, si sono messi a dare maggiori tutele. Quindi è un successo comunque del governo. L'importante è non raccontare balle, cioè non dire che sta aumentando l'occupazione. No, questo assolutamente, si rischia poi di perdere anche quel buono che si produce, che non è poco, perché per 10 anni abbiamo detto la precarietà, le aziende non sono su pianta stabile, dobbiamo combattere la precarietà, e questo è un risultato eccezionale. Poi dopo l'aumento dell'occupazione dipende da tanti fattori, innanzitutto che l'economia cresca, anche il Jobs Act può dare una mano, evidentemente, perché abbatte il cuneo fiscale, questo può anche incidere sul volume complessivo di occupazione, rende l'economia anche più competitiva, ma tutto è ragionamento macroeconomico in cui entrano i fattori, soprattutto della crescita. Ora con lo 0,7 in un anno, noi possiamo aspettarci in termini di aumento, sarà abbastanza che ci sia uno 0,1, uno 0,2, uno 0,3, ma stiamo parlando di 50-60.000 persone in un anno, non è che possiamo aspettarci in un mese più 92.000, no, moltiplichi 92.000 per 12. No, ma dico, ma se fosse così saremmo un milione di occupati. Un milione di posti di lavoro, e quindi magari in marzo è un mese che dal punto di vista stagionale cresce. Anche l'anno scorso, tra l'altro, i saldi erano di 60.000 a marzo. Pure nel 2014 mica l'occupazione aumentata, quindi ci sono elementi di stagionalità, di accidentalità, che guai a estrapolare da un dato mensile tutto l'anno, soprattutto quando si tratta di stock di occupati. Ha fatto bene il Presidente dell'Italia, analizzarli, anche perché è un conto sui dati del Ministero del Lavoro che escludono tutta la pubblica amministrazione, tutto il lavoro autonomo, tutto il lavoro domestico, e quindi ci possono essere passaggi da un mondo che il Ministero del Lavoro non controlla. L'Istat, quando pubblicherà i suoi dati, che fra l'altro sono campionari, anche quelli mese per mese vanno letti con attenzione, darà qualche risultato, indicazione più puntuale. Adesso i 92.000 dicono sì, bene, vanno nella direzione giusta, ma fare dei calcoli su quei 90.000 in più diventa appunto il pericolo di vendere una cosa che poi non succederà e che riduce anche l'importanza delle cose molto importanti che si fanno. Allora, lo ridiciamo, perché vedo che in questo paese è più facile essere guelfi o ghibellini che ragionare sulle cose per alcuni ascoltatori. Allora, se non cresce l'economia non ci può essere neanche Mago Merlino a far aumentare l'occupazione, perché le imprese assumono quando aumentano i fatturati e ci sono prospettive di crescita, perlomeno non aumentano quell'anno, ma hai degli ordinativi tali che ti dicono che avrai bisogno di nuovi occupati. Quindi se non riparte l'economia, consumi interni, quant'altro, gli occupati, non, o meglio i disoccupati, resteranno più o meno invariati. Sono due cose diverse, occupati e disoccupati, lo spieghiamo sempre. Altra cosa è dire che non lo può certo fare il governo con un contratto, con un decreto, far ripartire l'occupazione, deve ripartire l'economia. Altra cosa è dire invece che la riforma del mercato del lavoro ha incentivato le imprese a cambiare i contratti da tempo determinato, tempo co-pro o a parità IVA, in tempo indeterminato, per il doppio vantaggio che hai: per 3 anni non paghi i contributi e poi col Jobs Act oggettivamente c'è maggiore flessibilità. In uscita, grazie al professor Carlo Della Ringa, che mi ha confortato, perché vuol dire che qualcosa avevo capito, non ero sicuro. Benissimo. Ringrazio per il voto, ma non sto scherzando, perché con questi dati abbiamo preso degli scivoloni tutti quanti e il governo ci ha dato una mano a scivolare all'inizio, quando esultava. Allora, esultiamo perché si riduce la precarietà e ormai il 25% dei contratti sono a tempo indeterminato. Questa è l'unica cosa su cui si può esultare, se proprio si vuole. Traffico. Focus Economia. Borsa adesso, poi andiamo sulla multa alla Deutsche Bank e nonostante le agenzie delle entrate minimizzi su quello che è successo e che ha annullato una sentenza annullata, a nostro avviso fa precedente. Comunque andiamo con ordine: meno 0,50 Milano, meno 0,60 Parigi, meno 1,20 Francoforte, meno niente, più 0,36% Londra e più 0,16% gli Stati Uniti. AST Microelectronics meno 4,40, Ferragamo meno 3,70, Finmeccanica meno 3,16, Fiat Chrysler meno 2,20, Pop Milano meno 1,80, come Prismian e Unipolsai. Mediaset, il Monte dei Paschi e Autogrill perdono 1,5%. Buzzi Unicem più 1,91, Saipem più 1,80, Tenaris più 1,20, Ubibanca più 0,90, Telecom invece più 0,6 come Moncler, Banco Popolare più 0,50%. Oggi il commento lo facciamo con, come spesso ogni tanto facciamo, con gli operatori di borsa. Dottor Vincenzo Longo, Market Strategist presso IG Markets, buonasera. Buonasera a tutti. Volatilità molto sostenuta, mi sembra, tra ieri e oggi non si capisce quale sia la direzione. Atene e Mosca sono andate bene. Detto ciò, mi dia una spiegazione, mi dia un senso per questa borsa, se questa borsa ha un senso. Ah, Vasco Rossi, prego. Diciamo che l'impressione di massima è che dopo una lunga corsa che hanno subito gli indici azionari europei, siamo arrivati in una fase un po' di congestione, di incertezza. L'incertezza è dovuta per lo più a fattori che riguardano ancora una volta la crisi greca, da un lato, e anche ai dati statunitensi che infondono un pochino di incertezza su quale sarà il timing del rialzo dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Questi due fattori stanno creando un po' di incertezza, e con gli indici europei che hanno messo a segno delle performance del 24-25% in alcuni casi, come quello del nostro FTSE MIB, in questo momento portano a delle prese di profitto, e quindi nell'ultima settimana abbiamo assistito a delle vendite abbastanza importanti che hanno portato a queste discese di borsa. Dovrebbe finire il programma, nel senso che tra 30 secondi devo dare il GR24, però dopo il GR24 vorrei capire con lei appunto le prospettive che voi vedete, perché perché stiamo assistendo a movimenti che voi chiamate orizzontali, e cioè senza una direzione precisa. Vorrei capire che cosa vi attendete. Chi mi dice bisogna far abbassare tasse per far ripartire l'economia, assolutamente corretto. Faccio solo notare che Renzi ha preferito gli 80 euro, personalmente gli si diceva abbassa le tasse sulle imprese, c'è una riduzione dell'IRAP comunque anche in manovra. Faccio notare che Renzi ha molte colpe su questo, il governo fa un po' di melina, un po' di fumo. Attenzione, in questo paese le tasse non le ha mai abbassate nessuno negli anni scorsi, neanche quando l'economia cresceva, neanche quando c'erano governi di centrodestra che avevano questo come obiettivo, diciamo, politico, giustamente, sono di centrodestra, no? Neanche in quei casi le tasse le hanno mai abbassate, tutto il resto erano balle e l'economia cresceva. Quindi, questo non per giustificare Renzi, ma per dire che veniamo da una lunga tradizione. Vedremo dopo il GR24. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Stavamo finendo l'approfondimento di borsa, nel frattempo sono uscite anche altre notizie che riguardano la borsa. La Cassa del Risparmio di Genova, l'assemblea ha approvato l'aumento di capitale da 850 milioni di euro con il 99% dei voti favorevoli. Unicredit invece ha raggiunto l'accordo preliminare con Santander per l'integrazione di Pioneer con le attività di asset management della banca Iberica, e per ora è tutto. Allora, dottor Longo, dicevo, al di là del movimento, il Nasdaq oggi ha superato i 5.000 punti, l'indice dei titoli tecnologici americani, i 5.000 punti, e quindi si è portato ai livelli più alti dal marzo del 2000. Detto ciò, che tendenze prevedete? Ancora movimenti orizzontali? Beh, diciamo che la sensazione che abbiamo è che da qui alla prossima settimana e probabilmente fino a metà maggio assisteremo ad una fase ancora molto molto incerta sulle borse per via del tema Grecia, che continuerà in qualche modo a portare un po' di incertezza tra gli investitori. E ricordo poi che la prossima settimana abbiamo la riunione della Federal Reserve, che è abbastanza importante da seguire per capire un po' cosa pensano i vari governatori sulla crescita della prima economia del mondo. Quindi queste indicazioni unite al tema Grecia dovrebbero in qualche modo portare a una fase di incertezza. Probabilmente da metà maggio in poi torneremo di nuovo a riprendere la via dei rialzi. Però ecco, ci aspettano delle settimane difficili e continuiamo a raccomandare cautela, sottolineando che anche delle fasi di vendita molto accentuate sui mercati sono possibili, perché gli indici hanno registrato dei rialzi molto importanti. Cioè, quindi sono su livelli alti. Esatto, se ci dovessero essere delle prese di profitto marcate da parte degli investitori, potremmo assistere a dei scivoloni di borsa molto importanti, però bisogna tenere i nervi ben saldi, perché poi l'attesa è che da qui a breve il mercato possa ritornare a salire. Chiaro, migliori e peggiori, Novatech più 14,50, banca appunto la Cassa di Piano di Genova più 4,48, Bolzoni più 3,70, fronte opposto Bion meno 21, Poligrafici Printing meno 8,12 e Sunshine Capital Investment meno 8%. Grazie anche a Vincenzo Longo, Market Strategist presso IG Markets. Allora, multa record per Deutsche Bank, 2 miliardi e mezzo di dollari per lo scandalo della manipolazione del Libor. Allora, già UBS, la banca svizzera, aveva accettato di pagare 1 miliardo e mezzo di dollari di multa a fine 2012. Nell'inchiesta erano coinvolte anche JP Morgan, Citibank, Barclays, HSBC, Royal Bank of Scotland e il Credit Suisse. L'accusa qual è? Di avere manipolato, cioè fissato in maniera arbitraria, il livello del Libor, che è il tasso standard da cui si agganciano tanti altri tassi, per esempio i mutui a tasso variabile, molti prodotti derivati. Già Claudio Gatti, in un articolo di fine 2014, faceva notare su Sole 24 Ore come le banche in questione avessero già accantonato 8 miliardi di dollari, cioè messi da parte, per in previsione di nuove multe, proprio multe che si attendevano, sarebbero arrivate dalle autorità di vigilanza. Non risponde il vertice Deutsche Bank, il consiglio di gestione Deutsche Bank attuale e passato non è coinvolto, nessun membro è coinvolto o era a conoscenza della condotta inappropriata dei trader, che mi sembra una spiegazione un po' debole. E a questo punto parleremo anche più avanti, perché ci stiamo cercando il collegamento con Claudio Gatti, però arriva, eccolo lì, Claudio. Sì. Eccoti, buonasera, abbiamo pochi minuti perché poi ho un tema delicatissimo che riguarda l'annullamento di un accertamento fiscale che rischia di provocare, che ne dica l'agenzia di entrata, una valanga di ricorsi. Però una domanda semplicissima, vabbè, 2 miliardi e mezzo tu l'avevi già previsto guardando gli accantonamenti, da un lato perché una multa così alta, ma dall'altro il consiglio della Deutsche Bank può dire che è tutto fatto dai trader? Cioè, certo che lo dice, lo può dire, è legale dirlo, l'ha detto, ha fatto un comunicato, ma possiamo accontentarci di dire erano i trader di tutte queste banche che saranno messi d'accordo tra di loro? Assolutamente no, e a dire che non ci si può accontentare non sono soltanto i critici, diciamo, delle solite persone che guardano al ruolo delle banche e alla finanza come un qualcosa di gli abusi che sono stati fatti, ma lo ha detto lo stesso presidente della Federal Reserve di New York, William Dudley, pochi mesi fa, quando ha detto che il vero problema è un problema di bancarotta culturale delle banche e del fatto che si deve rigettare l'idea che siano che delle mele marce. Cioè, lui letteralmente ha detto il problema non è di poche mele marce, ma di una cultura e del modo con cui si conservano le mele. Sì, vabbè, ed è un'immagine figurata per dire, insomma, meglio dico, ma il consiglio di gestione di Deutsche Bank, se non sa che i trader stanno mettendo, non sapeva che i trader stavano mettendo in piedi uno dei più grossi scandali finanziari degli ultimi anni, che ci sta a fare? Cosa gestisci? Cioè, nel senso che quantomeno dovresti essere chiamato in responsabilità, cioè, oggettiva, dimmi. Sono tutti incentivati a produrre profitti. Tra l'altro, un'altra delle cose che ha detto Dudley, che anche in questo caso è la banca a farsi carico del pagamento della sanzione. Quindi c'è questa cultura di incentivare i bonus, perché alla ricerca del bonus si fa qualsiasi cosa. La banca chiude gli occhi perché comunque accumula profitti e poi ogni tanto quando succede qualcosa e vengono beccati... Sì, mi ricordo molto Jérôme Kervielli, il trader che aveva fatto tutto quanto da solo con Société Générale, 5 miliardi di buco. No, anche perché sembra un po' certe madri o padri con i figli che finché tutto va bene non si interrogano da dove arrivino i soldi. Poi scopri che te lo arrestano per spaccio, prostituzione, oddio mio. Insomma, ti sarai chiesto qualche volta da dove arrivano questi soldi? Anche il consiglio di gestione di Deutsche Bank si sarà chiesto come facevano a fare certi utili i trader che operavano nel libro? No, chiedo, perché uno dice, o se no scopre all'improvviso che non erano bravi e avevano truccato. Ma, e poi come se i singoli trader si mettessero d'accordo con tutte le banche che ho citato tra di loro, senza che nessuno ne sappia nulla. Mi sembra un po' comodo. Tra l'altro, Claudio, domani tu esci con una nuova inchiesta sul tema dei derivati, che nulla c'entra con Deutsche Bank, quelli sottoscritti dal Ministero del Tesoro con Morgan Stanley. Sì, sono finalmente riuscito a ottenere dei dati che ci aiutano a spiegare che cosa è successo e soprattutto quanto si è perso, perché finora sui giornali è stata riportata una cifra di 2 miliardi e mezzo, 2 miliardi e 6, in realtà la cifra è 3 miliardi e 100, e è solo l'inizio, perché ne arriveranno di parcelle che pagheremo noi. E allora io rimando al Sole 24 Ore di domani per capire, insomma, quanto ci costeranno i derivati che il Ministero del Tesoro ha sottoscritto con Morgan Stanley e il valore di queste cifre su cui tu hai messo mano. Ringrazio Claudio Gatti, lancio il traffico e poi cerchiamo di capire, nonostante comprensibilmente l'Agenzia delle Entrate minimizzi, che cosa potrebbe capitare dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che ha stabilito la nullità di un avviso di accertamento fiscale perché firmato da un funzionario dell'Agenzia delle Entrate a cui erano stati conferiti incarichi senza concorso pubblico. e cioè l'Agenzia delle Entrate aveva questa pratica di, per coprire carenze in organico, elevava funzionari a ruoli di dirigente, senza però un regolare concorso. La Corte Costituzionale lo scorso 17 marzo si pronuncia e dice: attenzione, non ci possono essere sanatorie o nomine interne, deve poi solo essere arrivare alla posizione di dirigente attraverso un concorso, non puoi farlo internamente. Ci sono 770 funzionari all'Agenzia delle Entrate che operavano in questo modo, cioè con ruoli dirigenziali senza regolare concorso. Uno può dire: chi se ne frega, è un problema interno all'Agenzia delle Entrate. No, perché nel momento in cui la Corte Costituzionale annulla, ritiene non validi gli atti firmati dai funzionari e il Tribunale, o meglio il Consiglio, la Commissione Provinciale di Tributaria di Milano ne prende atto, questo vuol dire che tutti gli atti firmati da questi 770 funzionari sarebbero da ritenersi nulli. Ora non oso pensare cosa possa capitare ai ricorsi possibili. Ne parleremo con l'avvocato che ha vinto la causa. Traffico. BMW Freightride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Focus Economia. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Ho commesso un errore, capita. Non è Maurizio Reggi avvocato, è commercialista, tributarista e ha vinto la causa appunto contro l'Agenzia delle Entrate. Dottor Reggi, buonasera innanzitutto. Buonasera. Allora, lei aveva un cliente, chiaramente, che aveva fatto un ricorso contro un accertamento e lei è andato, se ho ben capito, a guardare la sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 17 marzo. È da lì che origina il tutto, perché l'Agenzia delle Entrate dice: attenzione, non c'entra nulla la sentenza della Corte Costituzionale con quanto deciso dalla Commissione Tributaria di Milano, quindi che ha annullato l'accertamento fiscale del suo cliente. C'entra o non c'entra? C'entra. Quanto detto dall'Agenzia delle Entrate non è corretto, nel senso che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sua sentenza ha fatto espresso riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale che ha decretato l'illegittimità costituzionale della nomina di questi dirigenti. Si trattava in sostanza di funzionari che erano stati nominati dirigenti senza il previo concorso pubblico. Questo è un fatto molto grave, non solo per lo specifico avviso di accertamento che è stato notificato al mio cliente, ma per una questione di garanzia. Cioè, il cittadino italiano vuole essere sicuro che ci sia una amministrazione pubblica imparziale e quindi i dirigenti pubblici devono accedere a questa qualifica tramite concorsi pubblici, non possono essere nominati a loro volta da altri dirigenti. A questo punto, quando il mio sì, so che il tema può sembrare formale, ma è il principio dietro concorso, cioè l'imparzialità del funzionario pubblico. La legge, l'ordinamento prevede che avvenga attraverso appunto un concorso, quindi non posso dire io, che sono il capo ufficio, diciamo così, per farci capire, diventi a questo punto, fai le funzioni di dirigente, perché è chiaro che a questo punto tu fai quello che dico io e non sei più imparziale rispetto anche a un'attività di ispezione che ho messo in campo, tu accedi attraverso concorso. E comunque è una legge e c'è una sentenza della Corte Costituzionale. L'ho interrotta però. Sì, a questo punto le nomine proseguivano per anni, erano state sanate da leggi o decreti legge successivamente emessi. La Corte Costituzionale ha detto: no, fermi, questi decreti legge sono illegittimi, non si può andare avanti così. E quindi ha decretato in sostanza il ritorno di questi dirigenti alla qualifica inferiore che avevano prima. Allora, la domanda che ci siamo posti: ma questi funzionari che sono decaduti dalla carica di dirigente, che hanno sottoscritto degli avvisi di accertamento, gli avvisi sottoscritti sono validi? Questo è il caso del mio cliente, è stato raggiunto da un avviso di accertamento, la firma di questo avviso non era stata fatta dal capo ufficio, cioè dal direttore provinciale, bensì da un suo delegato. E questo delegato, il nome di questo delegato, risultava nell'elenco della sentenza del Consiglio di Stato che aveva rimesso alla Corte Costituzionale la legittimità costituzionale di questa norma. In sostanza, quel firmatario di quell'avviso di accertamento, il nome di quel firmatario, era nell'elenco di questa sentenza. Quindi era un soggetto che era decaduto da dirigente. A questo punto abbiamo posto il rilievo alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, chiedendo in sostanza: ma questo avviso di accertamento così firmato da un dirigente decaduto è valido? La Commissione Tributaria Provinciale ha detto no, facendo espressamente riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale. Ecco perché non ritengo che sia corretto quanto poi precisato dall'Agenzia delle Entrate, la quale ritiene che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale non faccia riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale. Allora, il caso, io non so quanti atti di accertamento firmi un funzionario, magari lo sa lei, un funzionario in media, però perché mi interesserebbe saperlo? Perché siccome sono 770 circa, questa è la cifra che gira, i funzionari che venivano elevati a ruoli dirigenziali senza regolare concorso, quelli su cui la Corte Costituzionale dice no, non lo puoi più fare ed è nullo, torna a livello di funzionario, è interessante capire quante migliaia di casi si possono aprire da questo punto di vista. Tra l'altro noi abbiamo invitato l'Agenzia delle Entrate, che ha preferito declinare l'invito nel suo diritto, per capire appunto, perché l'Agenzia delle Entrate dice non c'entra nulla la sentenza della Corte Costituzionale. La nullità, ha detto l'Agenzia delle Entrate, sta invece nella mancata prova in questo singolo giudizio dell'appartenenza del funzionario alla carriera direttiva. In realtà la carriera direttiva appartiene tutto al personale di terza area funzionale non dirigente, che può essere delegato dal capo ufficio a firmare gli atti tributari. A mancare nel procedimento è solo la prova dell'appartenenza dello specifico funzionario, giudicata invece essenziale insieme alla delega. Dicono sostanzialmente che l'unico motivo per cui hanno annullato quella cosa non è quello che dice lei, Reggi, ma è perché mancava l'evidenza che questo funzionario fosse delegato, altrimenti poteva farlo. Io non ci sto, però non capisco più se ha ragione a questo punto la Corte Costituzionale o l'Agenzia delle Entrate. Allora, quanto stabilito dalla Corte Costituzionale è definitivo, però la Corte Costituzionale si è limitata a stabilire la decadenza di questi soggetti dalla qualifica di dirigente. L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 prevede che gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette debbano essere sottoscritti dal capo dell'ufficio, che è il direttore provinciale, oppure da un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. In mancanza di firma l'atto è nullo. Allora il punto è stabilire, nel caso per esempio del mio cliente, il cui chi ha firmato l'atto, l'avviso di accertamento, era stato delegato, ecco, stabilire se questo soggetto era della carriera direttiva. Questo concetto non è chiaro. Però quello che è chiaro è che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha ritenuto che il fatto che questo soggetto sia decaduto dalla qualifica di dirigente portasse a ritenere che non fosse della carriera direttiva. Quindi la Commissione Tributaria di Milano ha espresso un giudizio che poi sarà probabilmente sottoposto al vaglio della Commissione Tributaria regionale, certo, cioè al secondo grado, se l'Agenzia delle Entrate farà appello alla sentenza. Beh, immagino di sì. Penso anch'io. E poi ci sarà la Corte di Cassazione. Quindi su questa vicenda non è detta ancora la parola fine. Quello che però va osservato è che il problema c'è e può essere molto... può essere generale, perché in Italia ci sono moltissime commissioni tributarie provinciali, ci sono moltissimi giudici provinciali che emettono moltissime sentenze all'anno. Allora, tutti quei giudici che riterranno di adeguarsi a questa sentenza annulleranno questi avvisi, gli avvisi di accertamento notificati. Allora, qui ci sono due domande che arrivano con frequenza. Uno dice, ma insomma in questo modo la sintetizzo, perché sono tante, in questo modo ci si appella, si va a cercare il pelo nell'uovo formale, e in realtà bisogna capire, c'era o no un'evasione, adesso io c'era o no l'illecito fiscale, adesso io lo posso chiedere a lei, al suo cliente, però il punto è che, guarda, questo programma non ha mai difeso un evasore che fosse uno, ci siamo solo permessi in anni passati di dire all'allora direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, che evadere è sbagliato, ma bisogna anche partire dai grandi evasori, perché massacrare con gli studi di settore, gli artigiani, in un momento di artigiani per dire, i commercianti, e c'era molto accanimento lì, e poi scoprivamo altre forme, vedi, paradisi fiscali societari all'estero. Solo quello abbiamo detto, un po' di granum salis, perché la crisi c'era e mordeva, e non è sui 1000 euro, 2000 euro di evasione, se si può dire questo, che pure è un reato che risistemi i 60 miliardi che scompaiono al fisco ogni anno. Per cui questo programma non ha mai difeso un evasore che fosse uno. Detto ciò, se c'è una legge, però non è che vale solo in un senso e non nell'altro. Il secondo aspetto, ho pochissimi 40 secondi, molti ci chiedono, vabbè, come faccio a sapere se il funzionario che mi ha giudicato, che mi ha fatto l'accertamento, che mi ha fatto la contestazione è legittimo o meno? Alcuni di questi nomi sono pubblicati in un elenco che ha pubblicato l'Agenzia delle Entrate nel suo sito internet. Altri nomi si trovano nella sentenza del Consiglio di Stato che li ha elencati. Ed è la sentenza, è un'ordinanza del 26 novembre 2013. Li ha elencati. Quindi, o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate o sulla l'ordinanza della sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 17 marzo, questo come informazione. Ripeto, qui però il tema è il rapporto anche tra cittadino e Stato. Le leggi si applicano sempre, comunque, e si applicano anche le sentenze della Corte Costituzionale, non solo quando fanno comodo. Abbiate pazienza. Poi c'è una responsabilità, a mio avviso anche oggettiva, di chi ha diretto, non adesso, non ce l'ho con Rossella Orlandi che è appena arrivata, però Attilio Befera è rimasto degli anni all'Agenzia delle Entrate. Possibile che non fosse un problema questo continuo elevare 770 funzionari a livello dirigenziale e i governi che hanno fatto i decreti legge? Per carità, insomma, attenzione, bisogna anche dare le responsabilità su questo. Io ringrazio intanto il commercialista, dottore commercialista e tributarista Maurizio Reggi. Grazie. Auguro a voi una buona serata, ci risentiamo domani con l'ultima puntata della settimana di Focus Economia, con la classifica dei 5 sprechi della settimana dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.